Niente se me contenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa. Allora, benvenuti e benvenute sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è Impatto, voci contro le nocività, sono le 17.40. Un breve aggiornamento dalla stazione Tiburtina. Questa mattina c'è stata un'iniziativa No TAV e quindi faremo un piccolo resoconto su come è andata la giornata. E poi, legandoci proprio alla questione treni, ma ci sposteremo in Germania, parleremo un pochino di quello che è successo tra ieri e oggi, blocchi delle ferrovie, anche blocchi stradali messi in atto dalla popolazione tedesca contro i treni che trasportavano scorie nucleari a causa del riprocessamento che avveniva in Francia. Poi la nuova politica italiana, la composizione del nuovo governo ci regala delle chicche come quelle del nuovo ministro all'ambiente Clini, che diciamo non ha risparmiato dichiarazioni sia per quanto riguarda il nucleare sul nostro territorio, tra l'altro che è un territorio che ha avuto un ottimo successo referendario, dovrebbe avere bocciato completamente la questione nucleare, dove il condizionale purtroppo è d'obbligo, e si è lasciato scappare anche dichiarazioni per quanto riguarda invece la situazione dei rifiuti laziale e italiana, diciamo mettendo in luce la sua posizione pro inceneritori e pro discariche. E quindi, sempre sui rifiuti, aggiornamenti su quanto riguarda il ricorso al TAR che si è espresso poco tempo fa, ricorso al TAR presentato dal magnate dei rifiuti Manlio Cerroni, e sulla posizione della commissione parlamentare sulle discariche di Quadro Alto e Corcolle. Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Thank you. me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. E torniamo in onda alle 17.45 di questo lunedì 28 novembre, un lunedì che, come diceva Gino, si è aperto con un'iniziativa NOTAV alla stazione Tiburtina, stazione la cui linea di alta velocità è stata inaugurata questa mattina in pompa magna con il presidente Napolitano e con un dispiegamento di forze dell'ordine da far impallidire qualunque altra manifestazione è stata organizzata. Un'iniziativa, un volantinaggio che ha visto non solo studenti e compagni e compagne NOTAV volantinare e ribadire che l'alta velocità non solo non la vogliamo in Val di Susa, non la vogliamo in nessuna parte d'Italia perché è un'opera inutile, costosa, che va a violentare un territorio già devastato da un'autostrada, ma un'iniziativa partecipata anche da lavoratori della Wagonlitz, alcuni degli 800 lavoratori che dall'11 dicembre non avranno più un posto di lavoro, licenziati perché la ditta, l'azienda Trenitalia ha deciso di sopprimere i treni notturni per lasciare spazio sempre ad alta velocità e ad altre linee, impedendo così a tutti i pendolari che facevano tratte, per esempio come la Palermo-Torino, di viaggiare di notte. Lavoratori quindi, come dicevamo appunto, dei treni notturni e della manutenzione della ditta RSI che si occupa della manutenzione sempre di questi treni. C'erano presenti questa mattina anche i familiari delle vittime della strage di Viareggio e anche loro hanno partecipato appunto a questa iniziativa di contestazione delle politiche dell'azienda Trenitalia. Nel frattempo diciamo che il presidio si è spezzato in due parti questa mattina: parte si trovava sotto la stazione Tiburtina dall'altro lato della strada dove sorge la nuova stazione, e una parte del presidio, in prevalenza popolato dai lavoratori della Wagonlitz, si è svolto su Ponte Tiburtino di fronte a Via di Portonaccio, per capirci. Un presidio che è durato un paio d'ore, nutrito, partecipato da molti lavoratori, passanti, ma anche cittadini e cittadine che si sono fermati e hanno condiviso la lotta con questi lavoratori della Wagonlitz. Quindi insomma questa iniziativa, che era cominciata come nelle aspettative di chi l'aveva organizzata come un'iniziativa di contestazione della linea alta velocità e della stazione romana che dovrebbe ospitare questi treni, si è estesa anche ad altri aspetti della vita delle ferrovie, da appunto chi ci lavora e delle condizioni di vita veramente di lavoro veramente spregevoli e complicate che i lavoratori delle ferrovie tutti devono sopportare sul proprio posto di lavoro, oltre a insomma alle condizioni di vita e di lavoro, anche ai pesanti abusi e alle pesanti forme repressive che questa azienda Trenitalia mette in campo contro i propri lavoratori. I casi denunciati dai microfoni di questa radio sono parecchi e di varia natura. E poi per finire appunto con i familiari delle vittime della strage di Viareggio, che insomma la strage di Viareggio non è altro che il prodotto dell'assoluto sfascio in cui sono state portate le ferrovie italiane, a scapito appunto dei servizi essenziali per la popolazione, per i pendolari, insomma per chi tutti i giorni prende quei treni per andare a lavorare o a studiare, e per investire questi soldi in questo mega progetto ancora una volta che è la TAV, che sono i treni a alta velocità, treni costosissimi per gli utenti che li prendono. Quindi insomma concentrare gli investimenti e tutto il business di questa società su questo aspetto del treno ad alta velocità, per sacrificare tutto il resto, la sicurezza dei convogli quindi vedi la strage di Viareggio, le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, quindi l'ultimo caso, solo l'ultimo caso dei lavoratori della Wagon Lits e della manutenzione, e poi per ultimo le devastazioni ambientali che il progetto della TAV porta con sé per la costruzione appunto della linea in se stessa, tra ponti e gallerie che dovrebbero attraversare e tagliare in due questo paese, che purtroppo in alcuni casi questa cosa è già avvenuta. Quindi insomma questa TAV è abbastanza emblematica di come riesce a raccogliere vari aspetti nocivi e dello sfruttamento delle persone. È insomma una chiara opera che entra a pieno titolo all'interno insomma del meccanismo capitalistico, come un'opera che privilegia i profitti per i dirigenti aziendali sacrifica insomma tutti gli altri aspetti che invece fino a quel momento erano insomma tipici di un servizio che doveva assicurare alla popolazione italiana tutta una serie di prerogative per insomma facilitare i trasporti, la mobilità all'interno di questo paese a tutta la popolazione italiana, non soltanto a chi magari ogni tanto, una volta all'anno, riesce a permettersi il biglietto di un treno ad alta velocità. Chi tutti i giorni, anche su tratte più brevi, viaggia e lavora su questi treni, conosce bene insomma la situazione di pericolo e di sfruttamento che insomma si vivono tutti i giorni. Da questi microfoni l'iniziativa di questa mattina insomma è andata più volte, è stata trasmessa e ci sono state relazioni su quello che è successo questa mattina. Il comportamento delle forze dell'ordine veramente rigido e repressivo, ma non ci stupiamo di questo, visto che alla presenza durante l'inaugurazione, oltre all'amministratore delegato Moretti delle Ferrovie, ci sarebbe dovuto intervenire una pletora di politici, tra cui il nostro presidente della Repubblica Napolitano, che insomma a scanso di equivoci è un bello sponsor di sviluppo e infrastrutture nocive e pericolose, e quindi insomma non si sottrae alla sua nomina veramente poco edificante, e va a questa inaugurazione. Qualche mese fa ha inaugurato un nuovo governo, qualche settimana fa ha inaugurato lui proprio un nuovo governo, ha deciso il Presidente del Consiglio, ce l'ha messo a sedere, e adesso insomma va all'inaugurazione della TAV. È evidente che questo nuovo governo grossi problemi darà a tutti i movimenti che si battono sia contro lo sfruttamento e le devastazioni ambientali e sia contro lo sfruttamento del lavoro salariato. La prossima finanziaria sicuramente vedrà dei peggioramenti sotto tutti i punti di vista, e invece ci fa piacere constatare come per questa giornata i vari aspetti problematici di questa situazione che la TAV comporta si sono riusciti ad almeno ad incontrare o hanno provato a incontrarsi in un'unica piazza davanti insomma alla stazione di Burtina. E quindi forse questo qui è un aspetto che andrebbe valorizzato nelle prossime riunioni, assemblee, se ci saranno, proprio del fatto che insomma una dinamica unica ha coinvolto vari aspetti e coinvolge vari aspetti che magari inizialmente sembrano svincolati, che invece sono riconducibili appunto allo svolgimento e al sistema economico che impone delle scelte, e la scelta appunto è questa TAV. Sì, e parlando di treni, è notizia del giorno, titola La Repubblica: la battaglia del treno delle scorie, Germania in migliaia invadono i binari. Da questi microfoni già è stata raccontata la vicenda da un compagno che di nucleare se ne intende parecchio, e noi ribadiamo la notizia, visto che siamo una trasmissione contro ogni forma di nocività, visto che anche l'anno scorso in diverse trasmissioni abbiamo fatto degli approfondimenti su quanto nociva sia l'energia nucleare. E allora ribadiamo, spieghiamo un attimino cosa è successo in Germania, dove stavano andando questi treni. Questi treni si stavano recando alla Hague, che è un sito in Francia, un sito di riprocessamento, ovvero un sito dove le scorie nucleari, tutta la mondezza che viene fuori dai processi di produzione di energia nelle centrali nucleari, vengono ritrattati per tirar fuori quell'1% di plutonio che rimane in queste barre esauste. Riprocessamento che, ricordiamo, come già detto più volte da questi microfoni, è un il riprocessamento è una serie di consiste di una serie di trattamenti fortemente aggressivi con solventi chimici come l'acido nitrico, l'acido solforico, di queste barre, delle barre esauste tirate fuori dal nocciolo delle centrali. Quindi il riprocessamento è un iter che di per sé produce altra immondizia, altre scorie nucleari e scorie di terzo livello, le più pericolose, quelle di cui... Quelle di cui appunto non sappiamo come disfarci, le scorie di terzo livello. E un altro sito di riprocessamento si trova a Sellafield in Inghilterra, e come dicevamo anche in qualche puntata l'anno scorso, come riportato dall'opuscolo Scenari Energetici, che fa, diciamo, ha fatto un'inchiesta, un'indagine su quali sono, qual è lo stato dello smaltimento delle scorie in Europa, abbiamo già visto che l'Italia ha un accordo intergovernativo con la Francia per lo smaltimento delle scorie. Questi rifiuti vengono mandati alla Hague, ma così come l'Italia anche molti altri stati europei, i rifiuti vengono mandati negli impianti di riprocessamento alla Hague o a Sellafield, e le scorie, diciamo tutta l'immondizia che viene fuori dal riprocessamento, viene rimandata agli stati emissari in primo luogo di queste scorie. E quindi vediamo come il movimento antinuclearista tedesco, movimento molto forte, ha risposto in maniera chiara e ferma a questo trasporto di scorie pericolosissime in questi bidoni Castor contenenti altri ulteriori bidoni della capacità di 200 litri, quindi forse anche persino di più, appunto i tedeschi si sono incatenati, incementati alle rotaie, impedendo e ritardando il passaggio di questi treni. Pratiche di blocco dei treni sono state anche adottate da compagni e compagne francesi in passato, ma anche nel passato recente, e anche, lo ricordiamo, dai compagni e le compagne del movimento No TAV in Valsusa. Anche quest'estate ci sono stati dei blocchi, come ricorderete. Poi sicuramente queste cose sono frutto, come dicevamo fuori onda, del fatto che in seguito anche agli incidenti di Fukushima il movimento tedesco ha incentrato moltissimo l'attenzione sulla questione nucleare. Evidentemente bisogna prendere atto del fatto che il movimento si è molto sviluppato, perché ricordiamo le manifestazioni partecipatissime di pochi mesi fa, e oggi, diciamo, sono riusciti a mettere in campo una resistenza molto forte, ma soprattutto una resistenza di massa disseminata su tutto il territorio tedesco che era interessato dal passaggio del treno. Quindi sicuramente il movimento antinucleare in Germania si sta sviluppando, e ovviamente non mancano neanche, diciamo, politici vari che cercano di cavalcarlo, come per esempio la leader dei Verdi, Claudia Roth, che difende questa volta i dimostranti senza riserve, dicendo che esiste il diritto di dimostrare, e quindi per lei anche i blocchi stradali e ferroviari ne fanno parte. Quindi prendiamo atto di questa dichiarazione, se vogliamo, positiva della Roth, ma sappiamo, diciamo, anche che i Verdi hanno avuto un grosso consenso popolare in Germania anche in seguito di queste battaglie contro il nucleare. Come veniva ricordato, anche l'Italia è un paese che riprocessa i rifiuti in Francia c'è un accordo che è stato stipulato e quindi sul quale magari anche il movimento italiano dovrebbe riflettere. Veniva già detto questa mattina nel redazionale, abbiamo vinto con il referendum, quindi in teoria nuove centrali non verranno costruite, ma ci sono ancora le centrali di Caorso, di Trino Vercellese e di Garigliano, che hanno rispettivamente 190 tonnellate, 32 tonnellate e 13 tonnellate di scorie nucleari italiane, che sono tuttora sul territorio italiano e che quindi dovrebbero essere smaltite. Non è stato ancora trovato un sito definitivo per lo smaltimento di queste scorie. C'è stato, diciamo, tempo fa un tentativo, ma comunque sia siti idonei non sono ancora stati trovati. Di conseguenza continueranno con molta probabilità anche i riprocessamenti attraverso la Francia, e quindi ci aspettiamo nuove mobilitazioni, così come l'hanno già dichiarate, già lanciate in Val di Susa, per cercare di ostacolarle. Passando invece al Giappone. Passiamo sì al Giappone, perché abbiamo una notizia dell'ultima ora. C'è un presentatore giapponese che lo ricordiamo, Otsuka Norikatsu, il quale praticamente pochi giorni dopo dell'incidente di Fukushima, in seguito anche a una campagna mediatica che era stata messa in atto dal governo giapponese per cercare di tranquillizzare la popolazione e ridurre, diciamo, la paura, ridurre anche il rischio, diciamo, o quantomeno far credere che il rischio nucleare non era così grave, non era paragonabile a quello di Chernobyl, questo presentatore in realtà non fu l'unico, mangiò delle verdure in diretta insieme a una sua collaboratrice, e praticamente dopo poco tempo purtroppo a questa persona gli è stata diagnosticata una leucemia linfatica acuta, quindi una leucemia molto grave che si guarisce solamente nel 30% dei casi. Le autorità allora proibirono alla popolazione di avvicinarsi a meno di 20 km dalla zona limitrofa a Fukushima e di mangiare prodotti freschi provenienti dalle zone vicine alla centrale, così come proibirono di bere acqua. E invece Yasuhiro Sonoda, un altro membro del partito del governo, decise a sua volta di bere un bicchiere d'acqua che proveniva da quei terreni. Quindi non si hanno notizie adesso a suo riguardo, ma comunque sia sicuramente mangiare o bere dei prodotti provenienti da quelle zone era fortemente sconsigliato, cavalcando il consenso, diciamo, del governo, cercando di far credere alla popolazione che non c'erano rischi, queste persone in realtà si misero molto in rischio e oggi probabilmente ne pagheranno delle drastiche conseguenze. Quindi questa è la situazione giapponese. Probabilmente ne pagheranno le giuste conseguenze, visto a quale squallida macchinazione di propaganda un personaggio televisivo si è prestato. Quindi insomma, che a questo signore viene la leucemia ci fa veramente sorridere, perché insomma, se sei veramente un servo, ma di quelli veramente pesanti, questo è il minimo di quello che ti può succedere, visto che ti presti a fare delle operazioni così scandalose e a continuare a voler rassicurare la popolazione, mentre invece la situazione è di gran lunga peggiore di quella che viene raccontata. Viene raccontata poi, bisogna vedere dove la raccontano, perché qui in questo paese di quello che sta succedendo in Giappone non ce n'è notizia praticamente da nessuna parte, se parliamo insomma dei media ufficiali e della grande comunicazione. E infatti, proprio per riportare alcune notizie che riguardano il Giappone, difficili da reperire, diciamo che crescono i timori per quanto riguarda le tracce di cesio-37 nel riso e nel pesce, e c'è un vero pericolo di contaminazione praticamente. C'è chi, come Greenpeace per esempio, cataloga Fukushima come il primo incidente mondiale e non affatto, come invece viene detto nelle TV di Stato, il secondo incidente nucleare più grave dopo Chernobyl, in quanto nella scala Ines i due disastri sono, tra virgolette, diciamo a pari merito, ovvero a livello 7. In Giappone lo Stato cerca di convincere la popolazione a mettere la testa sotto la sabbia, mentre organizzazioni indipendenti come l'AIPRI definiscono il tempo che ci separa dall'11 marzo marzo scorso, quando accadde l'incidente nucleare, dei 6 mesi di vera e propria censura suicida e mediatica. Quindi ad oggi, diciamo, l'alimento più a rischio è sicuramente il riso, dove sono state trovate delle tracce di cesio radioattivo. Il 29 ottobre scorso l'Istituto di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare, che è un ente governativo francese, ha rivelato il resoconto sulla quantità delle sostanze radioattive che sono fuoriuscite in mare dalla centrale nucleare di Fukushima. Il risultato è impressionante, perché da questo calcolo risulta che sono fuoriuscite 27,1 mila terabecquerel di cesio-137, circa 20 volte la quantità annunciata dalla TEPCO, che è l'azienda di gestione di Fukushima, quindi 20 volte di più la quantità di cesio che è uscita in mare rispetto a quella che è stata dichiarata dalla TEPCO e quindi sostanzialmente dal governo stesso. Per capire la gravità della contaminazione da cesio-137 è interessante leggere i post dell'AIPRI, che chiama e definisce il cesio amaro di Fukushima, e dice praticamente che c'è il pericolo che questo cesio venga accumulato anche da animali domestici o selvaggi che comunque vivevano nella zona maledetta, così la definiscono, la zona di Fukushima, e poi questi animali si sono spostati, perché animali di questo genere diventano dei veri e propri vettori di contaminazione radioattiva, in quanto i loro peli, le loro piume, le loro zampe accumulano delle polveri altamente dannose per l'uomo e quindi poi le portano in giro contaminando i terreni o comunque contaminando l'aria che viene respirata e quindi attraverso la quale si accumula questa sostanza radioattiva nel corpo. Quindi è molto, diciamo, c'è molta attenzione per quanto riguarda le associazioni indipendenti, pochissima invece per quanto riguarda il governo, da parte del governo, sulla contaminazione di riso e di pesce, che sono, se vogliamo, l'80% delle proteine animali della dieta nipponica, e deriva tutta dal mare. Quindi, nonostante ci sia un totale insabbiamento mediatico e istituzionale, la situazione del Giappone è gravissima, è sicuramente paragonabile a quella di Chernobyl, però come accadde per Chernobyl c'è un totale insabbiamento di tutta la questione, un silenzio stampa e mediatico completo. Chrome coffins from South African mines, here to watch the president pretend he's upset about it. We just sacrificed him, just like the Aztecs. Show a little gore on TV. That's the Marines, motherfuckers, blown up by a goddamn truck bomb. We watch you so angry, foaming at the mouth in your living room, that we can send everyone to war somewhere else. The blind are the first to go. The blind lead the blind over the hill. It's still 1984. We're itching closer to the Third World War. You too will meet the secret police. Allora, sempre dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto. Torniamo a parlare di nucleare. Poco tempo che è stato nominato il nuovo ministro all'ambiente, Corrado Clini, e noi siamo andati un po' a cercare informazioni che lo riguardano, e sappiamo che quando Clini era curatore del rapporto verso la strategia nucleare dell'Italia, che è datato settembre 2010, lui faceva affermazioni di questo tipo: tra le energie pulite c'è il nucleare, che è disponibile, efficace, è una tecnologia avanzata di riferimento per le economie che si stanno muovendo con maggiore velocità verso la nuova green economy. Oppure il nucleare contribuisce in modo significativo alla sicurezza energetica d'Europa. Quindi questo Clini solamente nel 2010, quindi parliamo di poco tempo fa, mentre adesso, nominato ministro all'ambiente, Clini dice: la questione è già risolta con il referendum per quanto riguarda il nucleare, ovvero non ho certo intenzione di riaprire una questione già risolta in modo chiaro con il referendum, sono impegnato da anni nella promozione e nello sviluppo delle energie rinnovabili. Gli ricordiamo che era il 2010 quando era curatore del rapporto verso la strategia nucleare dell'Italia. Nel 2011 lui si dice impegnato da anni nella promozione e nello sviluppo delle energie rinnovabili. Energie rinnovabili ed assimilate. Quindi in questo rientra un bel po' di monnezza, di cui Clini è sicuramente lo sponsor industriale eccellente. E ricordiamo che noi in Italia ne abbiamo ancora un sacco di monnezza nucleare, perché prima ricordavamo come in un accordo con la Francia l'Italia abbia stipulato un accordo con la Francia per il riprocessamento delle scorie, ma ricordiamo anche che in seguito al referendum che c'è stato, non l'ultimo recente ma quello precedente di 30 anni fa, in teoria le centrali nucleari presenti sul suolo italiano dovevano essere smantellate. Non è avvenuto questo decommissioning, che significa appunto smantellamento delle centrali. Le centrali, le cui mura, ogni singolo pezzo, ogni componente che abbia sia anche solo entrato in una centrale nucleare, ha assunto una certa dose di radioattività. Allora ricordiamo che la ditta Sogin, che riceve dallo Stato 150 milioni di euro presi dai contributi delle bollette elettriche, in particolare la componente A2, la Sogin avrebbe dovuto provvedere al decommissioning di questi siti e invece ancora non ha provveduto. Infatti, se volete una riprova di questa notizia che vi stiamo dando, vi basta fare un salto per esempio a Trino Vercellese, a Latina, a Garigliano, alla Quarta, a Caorso, oppure ad esempio in altri impianti per il ciclo del combustibile nucleare, cioè non erano vere e proprie centrali ma vi veniva processato il combustibile, a Saluggia, Bosco Marengo, Casaccia, Rotondella, e anche potete fare un giro ai magazzini di scorie di Borgo Sabotino e di Avogadro. Quindi ce n'è per tutti i gusti, chi più ne ha più ne metta proprio. Sì, possiamo fare un bel tour del nucleare anche qui in Italia. Quindi il referendum è passato, ma il problema scorie nucleari in Italia permane, resiste, questo lo ricordiamo. Ma permane in tutto il mondo, perché ricordiamo che non esiste al mondo un sito di stoccaggio per le scorie nucleari. Ci hanno provato i tedeschi con i depositi salini di Asse, dove però ci sono state delle infiltrazioni d'acqua. Ci hanno provato gli americani con le Yucca Mountains, ma persino prima di andare a depositare le scorie, i ricercatori hanno alzato le mani e hanno detto: signor Presidente, qui abbiamo speso 20 milioni di dollari per questa ricerca, ma non si cava un ragno dal buco. Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be. E allora qualche altra piccola chicca sul neo ministro Corrado Clini. Un neo ministro che rappresenta in tutto e per tutto la green economy e il green capitalism, aggiungiamo noi, ovvero la ridefinizione di questo sistema che è in crisi energetica, visto che le risorse non rinnovabili sono ormai agli sgoccioli. E adesso, insomma, tutti quanti si riempiono la bocca con le energie rinnovabili, con la diminuzione dell'emissione, però poi tirano in ballo il nucleare o per esempio tirano in ballo il biocombustibile. Leggiamo che il nostro ministro, attuale ministro, negli ultimi anni in cui è stato dirigente del Ministero dell'Ambiente, ha iniziato ad occuparsi di biocarburanti, il business del millennio, contestato a livello mondiale per le conseguenze ambientali sulle foreste tropicali, e lo ricordiamo anche contestato a livello mondiale perché per coltivare una cosa che poi viene bruciata e che non ha poi tutta questa grande utilità, sono stati sottratti ed espropriati territori a contadini che ci campavano con quei territori. Per diversi anni il signor Corrado Clini, il ministro Clini, è stato presidente della Global Bioenergy Partnership, associazione che ha come scopo la promozione dell'uso dei biocarburanti, e ha anche un discreto interesse per il mondo dei rifiuti, il nuovo ministro Clini, perché nel gennaio del 1990, quando affiancava il ministro dell'Ambiente Giorgio Ruffolo, è stato coinvolto nella scomparsa di alcuni rifiuti legati all'attività industriale della provincia di Savona, in particolare nell'area dell'Acna di Cengio, rifiuti che sono scomparsi nei pressi del fiume Bormida, rifiuti che sono stati smaltiti in maniera tutt'altro che pulita e tutt'altro che ortodossa, se così si può dire. Esatto, e quindi ci pare di capire che il curriculum di questo nuovo ministro dell'ambiente è veramente completo da tutti i punti di vista. C'ha le mani in pasta sia sul nucleare, le scorie nucleari e anche magari l'immondizia ordinaria. Sì, il nostro ministro è stato anche indagato in realtà e difeso da uno dei principi del foro, niente proprio di meno che da Carlo Taormina. Il neo ministro è stato indagato tra il 96 e il 97 dalla Procura di Verbania per l'inquinamento prodotto da un impianto di incenerimento di rifiuti della società svizzera Thermoselect. La società svizzera Thermoselect è quella che, insomma, ha il brevetto principale per la costruzione degli impianti di incenerimento. E quindi, insomma, parliamo della tecnologia madre da cui poi discendono tutti i moderni inceneritori, tra virgolette. Continuiamo questo spazio concludendo con le notizie da aggiornamenti su invece la questione dei rifiuti nel Lazio, magari dopo un piccolo stacco musicale. Your frown, and it's like looking down the barrel of a gun, and it goes off And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things up the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. Without a money bum, oh, I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, 'cause you turned over there, pulling that silent disappointment face, the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. And I can't be asked to carry on in this debate that reoccurs. Oh, when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. Yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all. Sempre dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, continuiamo a parlare di questo ministro Clini, che insomma continua a darci chicche incredibili anche per quanto riguarda la questione rifiuti, alla quale già abbiamo accennato praticamente. Clini dice che l'ambiente è stato usato come leva politica ultimamente e sono stati presentati in maniera non corretta i rischi connessi alle soluzioni. Parla di rifiuti. Si è consolidata troppo spesso fra le popolazioni una paura che non ha motivazioni tecniche o sanitarie, ma nasce da input politici. Sembra quasi un collega di Veronesi, Clini, insomma, usa le stesse parole. Veronesi diceva: posso tenere le scorie nucleari sotto casa, oppure diceva che sarebbe stato capace e disponibile a fare gli aerosol con i fumi provenienti dagli inceneritori. E Clini dice: non capisco perché una città come Copenaghen, che è considerata una capitale della sostenibilità ambientale, abbia nel cuore un impianto della abbia nel cuore della città un impianto che smaltisce rifiuti e produce energie, e la stessa cosa non possa accadere in Italia. Non accade in Italia perché ci sono nicchie di popolazione che hanno particolari sensibilità genetica o biologica che gli impediscono di vivere in una situazione come quella di Copenaghen. Si riferisce a Copenaghen, dove, ricordiamo, ci sono 32 impianti che smaltiscono poco più di 3 milioni di tonnellate all'anno, che è una quantità approssimativamente come quella prodotta da Roma stessa. Quindi lui dice che dobbiamo cominciare, sempre il ministro dell'ambiente Corrado Clini, a smontare le pregiudiziali politiche e ideologiche, quindi, perché chi si oppone a un inceneritore, a una discarica, ovviamente per lui ha pregiudiziali politiche e ideologiche e non ha motivazioni tecniche, e affrontare i temi per come si presentano. Quindi praticamente stringendo vuole attuare una politica che si basa nuovamente su inceneritori e discariche, perché gli inceneritori soprattutto diventano dei portatori, produttori di energia, l'energia che viene appunto prodotta dalla combustione o dei rifiuti stessi, oppure del syngas, che è il gas sintetico prodotto dalla pirolizzazione o la gassificazione dei rifiuti. Quindi diciamo le prospettive per questo nuovo governo, con questo nuovo ministro all'ambiente, non sono delle migliori, perché aveva posizioni pro nucleari fino all'anno scorso, oggi si dice attestarsi a risultato referendario per quel che concerne il nucleare, ha posizioni inceneritoriste, quindi in continuità con tutte le giunte regionali che si sono susseguite in particolar modo nel Lazio e con le politiche, diciamo, nazionali, e quindi sicuramente non avremo un futuro roseo per quanto riguarda l'ambiente, avremo un futuro di privatizzazioni, di costruzioni forsennate, di nuovi impianti industriali per produzione di energia, grazie appunto, come diceva prima Paolo, al fatto che le energie rinnovabili in Italia sono anche assimilate, quindi riguardano tutta una serie di impianti che non sono affatto rinnovabili. E alle dichiarazioni del ministro Clini, ministro dell'ambiente, si aggiungono quelle del collega Corrado Passerano, ministro dello sviluppo, che in un'intervista a Panorama dichiara: i termovalorizzatori vanno fatti, basta con il falso ecologismo, smettiamola con i pregiudizi ideologici, con il luddismo antitecnologico, con la paura per tutto ciò che sta di scientifico. Ogni provincia dovrebbe avere impianti di smaltimento suoi propri, in Lombardia ce ne sono 15 e quello di Brescia è da tanti anni un modello internazionale. È una vergogna intollerabile che la Campania non ne abbia ancora di funzionanti e che l'emergenza sia istituzionalizzata da 14 anni. E allora noi invece che un po' di pregiudizi ideologici ce li abbiamo, passiamo alla situazione del Lazio, perché siamo di parte evidentemente e ce lo rivendichiamo. Eh sì, e nel Lazio lo scontro, insomma, tra le varie gruppi industriali che tentano, insomma, di accaparrarsi il mercato dello smaltimento dei rifiuti, perché questo stiamo parlando, di uno scontro tra gruppi industriali, vede varie iniziative che, insomma, la settimana scorsa hanno portato a una udienza al TAR, precisamente il giorno giovedì 24 novembre, nella quale le aziende del consorzio di aziende di Cerroni chiedevano la revoca del commissario straordinario alla chiusura di Malagrotta, il prefetto Pregorario. Quindi, insomma, un'aperta contrapposizione tra il gruppo di aziende capitanato da Mario Cerroni e la scelta di nominare questo commissario straordinario, che probabilmente non ha tutta l'intenzione di eseguire gli ordini di Cerroni sull'argomento, e quindi è stata tentata attraverso il TAR di rendere illegittima questa nomina. Nel frattempo, questa settimana, un'altra commissione istituzionale, la commissione parlamentare sulle ecomafie, si è espressa in maniera del tutto non vincolante per quanto riguardano le scelte poi a livello regionale del Lazio, si è espressa e ha espresso grosse perplessità appunto sui due siti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti, quello di Corcolle e quello di Riano. Questa commissione antimafia sottolineava appunto i gravi rischi idrogeologici e sanitari e anche archeologici che questi due posti portano, la scelta di questi due posti portano con sé. Insomma, la località di Riano, di Corcolle San Vittorino, è a poche centinaia di metri da Villa Adriana, invece per quanto riguarda le cave di Riano, le cave ormai sono a pochissima distanza dalla falda acquifera e sicuramente porterebbero a un inquinamento della falda stessa, perché appunto il terreno che la divide dall'acqua ormai è ridotto all'osso. Quindi, insomma, si è espressa questa commissione. La commissione ci tiene a sottolineare che non intende mettere i bastoni tra le ruote a chi ha il potere di decidere sull'argomento, cioè il prefetto Pecoraro e la Polverini, ma però, insomma, dà queste indicazioni che sono contrarie, perché, insomma, il pericolo c'è ed è di questa natura. Quindi lo scontro sulla chiusura di Malagrotta rimane. È evidente da tutte le dichiarazioni che sono uscite in queste settimane che prima di un anno un luogo dove andare a buttare i rifiuti non si troverà e non sarà nemmeno pronto, perché i tempi tecnici sono quelli, tra iter amministrativo e costruzione vera e propria del sito, e quindi a breve, cioè entro la fine dell'anno, probabilmente la Polverini sarà costretta a dare una nuova proroga alla discarica di Malagrotta, appunto per compensare il tempo per trovare una soluzione. È evidente che, insomma, il piano dei rifiuti regionali proposto dalla Polverini, che è una copia di quello della giunta precedente di Marrazzo, ha le gambe corte, e questo scontro tra gruppi industriali gli sta tagliando ulteriormente le gambe, perché appunto i vari sgambetti che si fanno tra i due gruppi stanno soltanto che allungando i tempi per una decisione che però è sempre la stessa, o inceneritori e discariche. Non c'è notizia, non c'è segno invece magari di investimenti e iniziative di tutt'altro segno. Questa situazione è molto grave perché insomma è evidente che non si cercherà di ridurre la quantità totale di rifiuti prodotta, ma si continuerà soltanto a smaltirli nei soliti metodi che noi immaginiamo. Invece noi che insomma siamo di parte, ricordiamo a tutti che c'è bisogno di una presa di coscienza e di una investimento forte anche dal punto di vista economico per invertire la rotta ed cambiare proprio politiche e gestioni e gestione dello smaltimento dei rifiuti e della produzione dei rifiuti in sé. Fino a che questo non si intraprenderà un percorso di questo tipo, le popolazioni e le istituzioni in generale saranno sempre sotto ricatto e potranno tra l'altro utilizzare continuamente lo spauracchio dell'emergenza per imporre con la forza decisioni molto dolorose, cioè l'apertura appunto magari di nuove discariche. Le scorse settimane ci sono state parecchie mobilitazioni su questo argomento. Logicamente le notizie che vi stiamo riportando appunto del fatto che comunque sia per prendere una decisione e sia per costruire un sito più ci vorrà almeno un anno, questa cosa dilaterà i tempi anche della mobilitazione da questo punto di vista, proprio perché insomma sta dando un po' di fiato ai movimenti che vedono insomma allontanarsi per un pochino magari un futuro cantiere sul proprio territorio. Però insomma è sempre importante tenere all'attenzione su questo argomento, anche perché è un argomento che all'interno delle istituzioni sta producendo uno scontro politico che magari può avere anche dei risvolti più ampi di quelli invece relativi soltanto all'apertura della discarica in sé. Per quanto riguarda invece la discarica di Roncigliano, ci sono state delle iniziative le settimane passate e ce ne saranno delle altre, proprio per pretendere dalle autorità locali, in particolare dal comune di Albano, di intraprendere tutta una serie di iniziative per insomma adeguare la situazione di diffusa illegalità che la discarica di Roncigliano vive e cercare insomma di impedire che lo sviluppo e la gestione di questa discarica continui in queste modalità che insomma stanno causando e causano gravissimi problemi sanitari, non da ultima insomma la denuncia e tutta la polemica che poi c'è stata sui giornali sugli sversamenti dentro al fosso di Valle Gaia. Sversamenti che sono stati denunciati e documentati da appunto dagli attivisti compagni del coordinamento contro l'inceneritore e che invece l'azienda, la Pontina Ambiente di Maglio Cerroni, ha rigettato al mittente dicendo che questi sversamenti erano stati fatti 400 metri più su lungo il fosso e quindi non era colpa della discarica della presenza di quei liquami, ma 400 più metri più a monte non ci sono né discariche né centri siderurgici, perché una porcheria come quella o la fa una discarica o la fa un'acciaieria. Ci sono soltanto le case dei residenti e quindi insomma accusando come se i residenti avessero sversato loro questa roba per poi incolpare i gestori della discarica. Entrare nella disponibilità, cioè avere la disponibilità dei percolati non è proprio molto semplice per la popolazione. Ma come no? È difficile insomma. Non possiamo correre dietro ai camion e raccogliere lo schifo che insomma perdono quando hanno in giro. Quindi questa denuncia sicuramente ha messo in difficoltà l'azienda, perché poi tra l'altro lo sversamento dei liquami è anche dal punto di vista penale un reato perseguibile. Quindi l'azienda cerca quanto più velocemente di nascondere e comunque allontanare le responsabilità. Tra l'altro la paura poi nel territorio è maggiormente accentuata dal fatto che, visto che non si trova una soluzione per la chiusura di Malagrotta, c'è il serio rischio che gli impianti già esistenti, tipo Albano, tipo Borgomontello, tipo Guidonia Linvolata, magari temporaneamente potrebbero ospitare l'immondizia di Roma, mentre si cerca un nuovo sito alternativo. Questa ipotesi, visto lo scontro e visto quello che sta succedendo, non è poi così lontana, perché insomma gli unici siti che esistono e sono funzionanti sono questi. Alle brutte, temporaneamente magari siamo questi, e insomma discariche pensate per la provincia dovrebbero ospitare invece quantità di rifiuti prodotti da una città bella grossa, e le conseguenze non si tarderanno a farsi sentire. Bene, allora per questo lunedì noi abbiamo concluso con qualche minuto di ritardo. Vi ricordiamo il nostro indirizzo mail per contattarci, per segnalarci iniziative o qualunque cosa riteniate opportuno segnalarci. Il nostro indirizzo è impatto@ondarossa.info. A risentirci a lunedì prossimo, sempre con Impatto, sempre alle 17:30. E adesso dedichiamo una canzone a una compagna che purtroppo ci ascolta da un letto d'ospedale. Speriamo che se la goda.